non lo volevo immaginare. Che tu non sia vicino a me, non lo volevo più pensare. Che adesso tu non pensi a me, perché ho paura di sbagliare. Parlare troppo e farti male, non lo volevo più ridire. È meglio capire chiedendotelo a te. Ma la conosco quella faccia, io la conosco più di me. Quando non me la dice tutta, lei chiede che problema c'è. Non lo volevo immaginare, ma dimmi cosa devo fare. Se non ti posso dimostrare che un sogno fa male restando qui con te. Che forse è nato troppo in fretta e sono troppo come te. Forse non mi so comportare, perché non basta ridere. Forse ci sono troppi forse ed ho paura di sbagliare e di non essere capace di farti felice se tengo troppo a te. Ma non è il caso di viaggiare, non c'è bisogno di pensare. Quando mi guardi dentro agli occhi, un giorno ti porterò al mare. Perché la vita mi sorride quando so che mi sai capire, senza riuscire a controllare gli sbalzi di umore che sento qui con te. Senza riuscire a controllare gli sbalzi di umore che sento qui con te. Senza riuscire a controllare gli sbalzi di umore.